Eccoci qui, siamo alla... A che puntata siamo? Prog 17. Buonasera, siamo ormai alla sesta puntata del rovescio della medaglia. E oggi si è fatta una piccola riunione così proprio super improvvisata, si è detto oggi apriamo questa puntata con il sottofondo della sigla, vero Prog 16? Sì, teniamo come sottofondo... Ci piace sperimentare. Oggi questa l'abbiamo programmata però, perché poi non ci troviamo d'accordo, mettimi la base, no la base non te la metto, ti metto questo, così almeno teniamo questa ora tutta la puntata. Proprio 15, lo faccio pure, io gridavo già la settimana sperimentazione, già mi hai proprio spezzato le gambe sul nascere. Benissimo, comincia bene anche questa puntata. Allora, siamo, come dicevamo, siamo alla sesta puntata, vero? La sesta puntata del rovescio della medaglia, il rock prog italiano dalla A alla Z. Ok, solo su Radio Wombat. Yeah. Allora, diamo subito le informazioni base, così ci togliamo il pensiero, Prog 17. Il nostro sito è wombat.blogs.org, il twitter.com/radiowombatfi e poi c'è facebook.com/radio-wombat-firenze e per chi ci vuole scrivere per dirci qualsiasi cosa in generale, la mail è postawombat@insiberia.net. Benissimo, allora, come la vuoi cominciare questa puntata, Prog 17? Allora, come avevamo detto la puntata scorsa, questa è una puntata speciale. Grazie. È una puntata speciale, la maggior parte dedicata a un gruppo famoso, un gruppo storico del prog italiano, che sono Le Orme, che dopo approfondiremo un po' insieme a Prog One. Ok. Il discorso. Prog 15, com'è andato questo fine settimana? Via, non hai visto nessun gruppo, live, niente? Questo fine settimana siamo stati in tournée. Si può dire, siamo stati in tournée, sì. A Roma. Ah sì? Col tuo gruppo? Sì, con il mio gruppo e il gruppo Spalla. Fantastico. Ok, quindi diciamo che non hai visto nessun live, l'hai fatto semplicemente te il live? Sì, il live era un festival prog. Bellissimo. A Roma? A Roma, sì. Sì. Dai. Sì, suonavano i tour. E altri gruppi del neo prog italiano comunque, sì. Vero, e poi più tardi durante la puntata, nel corso della puntata, ci darai altre informazioni shock di questo fine settimana così spumeggiante, così progheggiante, sì. Via, progheggiante mi piace come termine, un neologismo Proggeggiare, bello, vai, si va a proggeggiare stasera? Cioè, potrebbe diventare uno di quei termini che vanno di moda, no? Sì, possiamo sentire la Brusca se accetta questo neologismo. Però questa suona come sfida quasi, no? Sì, è una collaborazione e sfida con le amiche e le colleghe dell'Accademia della Brusca. Fantastico. Fai una prova, Prog 17, se c'è acceso il microfono, se no stai parlando solo a me in sala. No, il microfono è il acceso. Il microfono è acceso, sì, bene, perché sì, sì. Lo sciopero va avanti a oltranza, negli anni di piombo c'erano scioperi così lunghi. Va bene, allora, con cosa vuoi cominciare questa lunga e fantastica puntata? Allora, io comincerei subito dalla lettera J, unico gruppo in scaletta con la lettera J, che si chiamano i Jumbo, o i Jumbo, a seconda della pronuncia. Jumbo. Jumbo è tedesco o latino, forse. Però Jumbo è più internazionale. Benvenuto. Vuoi fare un saluto alla radio? Abbiamo un ospite speciale, l'ex chitarrista dei Jumbo, che si è appena sentito il nome del gruppo, si è rizzato dalla seggiola. Non vuoi salutare nessuno? Siamo in diretta. Ecco, vi ha salutato. Allora, dicevamo, il gruppo che ci vuoi presentare oggi, allora, Prog 14, che dici un po'. Allora, un po'. I, I Giumbo sono un gruppo milanese e fece uscire dei suoi 45 giri nel 1970. Ma quello che ci interessa non sono ne ne non tanto i singoli, nemmeno il primo disco, che ancora non era molto, diciamo, molto maturo né completo, bensì il secondo disco del 1972, che è uscito a pochi mesi dal primo album omonimo, quindi si chiamava Jumbo. E nel 1972 esce questo LP, un LP finalmente, diciamo, completo sia musicalmente che come testi, dal titolo DNA. La prima facciata dell'album è praticamente, come si dice, viene occupata, Pro che 15, cioè, no, sto facendo l'esame di musica più o meno no, contemporanea. perché siccome non sto leggendo, sto Accetti un andando. 18 politico, ti do un 18 politico e o torni la prossima volta. Che si fa? Cominciamo con più grinta, No, forza. siccome non sto leggendo, ripeto, e sto andando a memoria, devo un attimo pensare, date, nomi, così. Quindi Ok, è occupato da, la prima facciata è occupata da una suite che si chiama Suite per il signor K, che dura all'incirca 20 minuti, che è purtroppo la suite che vi faremo E che ascoltare esce, questa ma a te sera. non dovevi dirlo che durava così tanto, proprio 15, cioè te dovevi dire una suite come abbiamo fatto finora, una suite autoprodotta come quelle che vendiamo noi sotto banco, facciamo anche a Napoli, fanno già i pezzotti delle nostre suite, non dovevi dirlo perché ora magari chi ci sta seguendo dice vabbè 20 minuti Vabbè, si o a fare la prepara, spesa, sposto la macchina o a si fa picchiare uno qualcuno per spritz, strada. intanto si prepara uno spritz, due salatini e si mette sul divano. Comunque questa non è una suite autoprodotta, però condividiamo, siamo Condividiamo. complici di questa suite. Certo, È bello noi la così, no? Suona bene dire sono complice di questa complice. suite. Ci parte anche l'applauso, ci Sì, parte anche il dal pubblico, meritato applauso. perché abbiamo questa, la novità è che abbiamo il pubblico in diretta. Fateci sentire un bel applauso qui nello studio di Fatecelo Radio sentire. Wombat. Grazie, Grazie, grazie, grazie, grazie. Dobbiamo ancora decidere la grazie. tariffa degli Bene, autografi, bene. Pro No, perché che sono un po' timorosi ancora. C'è un pubblico un po' timoroso, quindi se non glieli chiediamo noi applausi, così no, da soli non partono. 15. Va bene, via. Allora, vogliamo mandare questa prima suite? Che ne Mandiamo pensi? questa prima suite e si chiama Suite per il signor K dall'album DNA dei Jumbo 1972. Enjoy. Thank you.

grandi questi Jumbo, eh? Forse avrebbero meritato un po' di più. Vabbè. A livello dico di fortuna, di fama, perché comunque è un bel gran pezzo. Un bel gran pezzo, hai ragione, è vero. Vogliamo andare avanti con la scaletta, prog 13 e un quarto? Andiamo avanti con la scaletta, così poi passiamo subito alla, diciamo, alla parte, alla rubrica speciale sulle orme. Ah, ok. Sì, andiamo un po' più veloci ora e poi dopo ci soffermiamo un po' di più, se sì, sei d'accordo. No, no, io sono sempre d'accordo. Bene. Ora andiamo a dritto e facciamo ascoltare i primi 10 secondi di ogni pezzo. Così da 3 minuti siamo già alle orme, va bene? O preferisci? No, no, stiamo... Facciamo una cosa più soft, un arrivo più delicato a... verso le orme, ecco, diciamo che stiamo arrivando, però se abbiamo le orme, seguiamo le nostre orme per andare dalle orme, no. Mettimi il pezzo. Ok, allora partiamo. Il secondo gruppo che vi proponiamo è la Seconda Genesi. La Seconda Genesi ha praticamente, diciamo che tra gli appassionati del prog, e diciamo l'album, che è l'unico album che hanno fatto, che si chiama Tutto deve finire, del 1972, e diciamo è un album abbastanza costoso e ricercato nel genere. Te lo dovresti sapere, Prog 13, che acquisti sempre l'EP Prog. Sì, è uno dei più ricercati e dei più costosi, detto proprio in termini così, insieme a quello, vi ricorderete, dei teoremi, ma ci saranno anche altri gruppi che poi, quando arriverà il loro turno, ti dirò, perché ho fatto delle ricerche, ho guardato e siamo a dei prezzi allucinanti, però non anticipiamo nulla. Ma ancora sono espressi in lire i prezzi o li troviamo ancora? No, no, in lire, alcuni in lire, purtroppo ancora in lire, infatti c'è da fare la conversione. Infatti quest'album fu stampato in sole 200 copie, sicché è ricercatissimo. Allora ci siamo, io continuo a ruttare birra, vabbè. Allora, ho provato a nascondere i primi 3 rutti, al quarto rutto devo chiedere scusa e per educazione chiedo scusa. Ma non sono proprio rutti, sono dei reflussini. Dei reflussi del fine settimana. Allora, andiamo avanti. Allora, di quest'album Tutto deve finire, andiamo a presentare il pezzo che si chiama Vedo un altro mondo. Vogliamo dare qualche altra notizia della Seconda Genesi o ci fermiamo qua? Prog 17, che ne pensi? Ma io andrei direttamente con il brano, così che si va con il brano, diciamo, parla più la musica, dice molte più cose la musica di tante parole, soprattutto se le parole sono le nostre. Oh. Ma che finale. Thank you. Ok, andiamo a chiudere sulle note di Vedo un altro mondo della seconda Genesi, con questo pezzo con un'accentuata parte di flauto, come avete potuto ascoltare, e loro erano la seconda Genesi. Non ve lo aspettavate da un gruppo che si chiama la seconda Genesi, un pezzo così tirato, un po' fancheggiante, un po'... Beh, nemmeno io me lo aspettavo. Questa è una perla, che poi stranamente, come per quel periodo, diciamo un brano che dura anche poco. È vero. Molto proprio sì, da infatti, tutto, da tu in tre minuti. D'impatto, sì, da sì, tutto, da e tutto via, in tre minuti. Un po' come i conigli. Com'è? Perché scusa, i conigli? Ma perché Suoi Conigli era un gruppo, eccolo, un gruppo prog? Guarda chi c'è in studio. C'è l'ex batterista dei Goblin. Vieni, fai un saluto, vieni, che cambiamo tema. Fai un saluto. Salve a tutti i radioascoltatori di Radio Wombat. La batteria l'hai venduta? La tua? Ormai sì. Ma di sicuro avrete riconosciuto, questo era un piccolo scherzone, era la voce di DJ Dalai Dama. L'avrete riconosciuto senz'altro tutti. Yeah. No, era per spezzare un attimo il calo di di pressione. Il calo di pressione, il calo di indecenza che stava raggiungendo. Estendere due o tre veli pietosi. Abbiamo dato una spalmata di velo pietoso. Abbiamo dato una spalmata di velo pietoso. Ma ci siamo ripresi alla grande, vero? Sentiamo il nostro grande pubblico. Grazie. Grande. Ci hanno perdonato anche stavolta. Grazie ragazzi, grazie a tutti. È bellissimo. Senti che Andiamo avanti. Prog 16. Allora, andiamo avanti con un... Che presentiamo? Con un gruppo romano. Sì. Che si chiamano L'Uovo di Colombo. Fantastico. L'Uovo di Colombo, anche loro hanno avuto un po' di movimento all'interno, no? Perché il cantante è stato anche il cantante dei Cherry Five, sì, vi ricordate? Sì, Cherry, sì. Five, poi Goblin, poi certo, e oltre che Elio Volpini al basso, chitarra e voce, ha anche, diciamo, per così dire, militato veniva dai Flea, vi ricordate questo enigma poi mai risolto, i Pidocchi, Flea, no? Che non si è mai capito. Ondioni, che come lo traducesti? Io mi ricordo Prog 13. I Pidocchi sul miele. I Pidocchi erano? Sembra di sì, o le pulci. Pulci, che c'è una differenza tra pulci e Pidocchi, nel senso. Vabbè, però, andiamo avanti. Comunque, andiamo avanti. Di questo gruppo, L'Uovo di Colombo, vi facciamo ascoltare per la prima volta un singolo. Il singolo si chiama L'Indecisione. È un brano molto, molto completo e molto, molto maturo da parte di questi degli Uovo di Colombo, che comunque anche loro hanno fatto un solo album. E questo brano del singolo apre anche l'LP, il 33 giri omonimo, che appunto si chiama L'Uovo di Colombo, e il brano si chiama L'Indecisione, che a questo punto vi andiamo a far ascoltare. Poi possiamo... non so che se c'è qualcuno che, diciamo, un esperto, un ammiratore, un fan dell'Uovo di Colombo, ci può scrivere sempre a postawombat@insiberia.net per darci qualche consiglio, qualche suggerimento riguardo all'Uovo di Colombo e a tutto il prog italiano e mondiale. Non vi affrettate però, ce ne sei. No, se no ci intasate la mail. Con calma. L'Indecisione, L'Uovo di Colombo. Ok, abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando l'indecisione dell'uovo di Colombo. Il gruppo è l'uovo di Colombo. Ma lo sai qual era l'immagine di copertina dell'uovo di Colombo? No. Era l'uovo di Colombo. L'uovo messo in verticale con, diciamo, il culo rotto. Così che stesse in piedi, sì. Bello, bello. In effetti no, non è che ci voleva tanto. Vabbè, l'uovo di Colombo. Un po' magari potrebbe essere anche una trappola. Capito, io risponderei l'uovo. Capito, quindi che non lo so. Via. Vabbè, sembrava... Una curiosità. Mi sembrava troppo facile, via. Ok, allora andiamo avanti con la trasmissione e leggiamo un po' gli appuntamenti della settimana, no? Dai, la rubrichetta gli appuntamenti della settimana. Allora ricordiamo, partiamo da domani 7 e domani prog 13, vero? Che ci sono gli Osanna a Teatro Puccini, no? 7 o 8, quant'è? Il 7. Sicuro? No, sì. L'hai sparata a caso? No, il 7. Il 7? Sì, sì. Quindi romani, vi ricordiamo che al Teatro Puccini sono gli Osanna truccati ancora come 40 anni fa e gli NCCP, noleggio con conducente per proletari, che nelle serate più sfascione, più devastanti ci avete gli NCCP. No, non è vero, sono come dimmi te l'acronimo che me lo scordo sempre. Nuova compagnia di canto popolare. Così noi si riperride. Così. Poi vi ricordiamo, venerdì 9 aprile alla Polveriera, ore 18 concerto, alle 18? Sì. Alle 18 il concerto? Dalle 18. Cioè inizia la serata dalle 18. Perché? E poi a seguire il concerto, ma comunque in orari molto, molto aperitivigianti. Ok, quindi ci saranno i Re Cane e suo marito più Squirt Parade Show. E poi il sabato 10 invece, sempre dicembre, 10 dicembre giusto? Sabato, sì. 10 dicembre al CSA Next Emerson ci sarà un concerto, gli Ovo più gli Idle God o Idle God, come si chiama? Boh. No, non lo so, guarda, sinceramente. Idle God più The Mild a cura di Dio Drone del collettivo Nuovi Rumori. Poi qualche altra. Per ora non ci sopraggiungono notizie. Comunque, se qualcuno volesse dare dei suggerimenti, può scriverci a postawombat@chiocciolainsiberia.net. Rifarlo un po' meglio, più deciso. postawombat@chiocciolainsiberia.net. Una mail formatasi nel 1977 con. Non lo so. Va bene. E sparala però, va bene così. 17. Devi imparare ad usare anche il programma, no. Io non posso fare tutto, il DJ, il promoter, il tecnico del suono. Aspetta, perché ho il mouse con la mano sinistra, io sono destro, quindi impari, mi trovavo un po' tremolante con questo mouse, non ce l'ho fatta. Diventi ambidestro, non posso fare mica tutto. Già mi sono comprato l'ex batterista dei Goblin. Ascolta. Le risate comunque sono spontanee del nostro pubblico qui in diretta. Certo, fatevi. Certo. Allora, dai, pubblico, fatevi sentire, no, non siate timidi. Siete un pubblico fantastico. Dopo l'emozione, la trasmissione andando avanti, comincia a singhiozzare. Va bene. Allora, entriamo proprio nel vivo della trasmissione. Di questa puntata che, come dicevamo, parliamo delle ombre. No, ombre. Aspetta, è un lapsus, perché infatti volevo dire questa cosa, raccontarvi questo aneddoto. Mettetevi comodi in ciabatte. Stiamo parlando delle orme. Le orme inizialmente dovevano chiamarsi le ombre. Perché? Perché sono un gruppo veneto. Ma è tutto studiato. Sì, ma pensate. Sono un gruppo veneto, precisamente di Mestre. Comunque, siamo lì. Marghera. Si volevano chiamare le ombre perché, come saprete, o chi non lo sa, glielo dico io, l'ombra a Venezia è il bicchierino di vino rosso. Perché è il bicchierino? L'ombra o l'ombrina, l'ombretta, poi viene chiamato come a seconda delle zone o Dei dei quartieri, dei quartieri. rioni. Comunque, quello dell'ombra, perché ci sono almeno due teorie su questo nome. La prima è che i venditori di vino in Piazza San Marco si spostavano a seconda dell'ombra del campanile per tenere sempre il vino all'ombra che non prendesse difetti. No, Quindi questi aspetta. si muovevano tutte le ore del giorno e facevano il giro del campanile di Piazza San Marco. Un'altra, un po' più poetica, attribuisce questo nome al fatto che i pittori o comunque gli artisti che frequentavano le osterie veneziane avevano dato questo nome diciamo, a una figura retorica che è la sinecdoche, che invece di descrivere il bicchiere di vino descrivevano l'ombra che veniva proiettata sul tavolino, sul bancone del bicchiere col vino. Quindi loro, Fantastico. poeticamente e metaforicamente, con una sineddoche dicevano non un bicchiere di vino, non un bicchiere, che è un'altra sineddoche, ma bensì un'ombra. Questa è, diciamo, c'è cioè, la versione più storica e la versione più poetica. Quella che vi piace di più è quella vera. Ho spezzato le gambe proprio 13. Ero partito, Potrei questa andare anche sembrava a una casa. mezza cazzata invece. Potrei andare anche a casa, sembrava l'ennesima rimastonata nostra di sbagliare gruppi, nomi, date. Invece no, ti sei fatto un quarto d'ora da solo. Ora ti prendo in braccio e ti coccolo tutta la puntata. Mi mancava una base sotto, però va bene anche È così, dai. vero, ma vabbè, Va ma bene, bella buona comunque. la prima, quella è Dai, stata solo la prima. il primo album, ora farò casino tutta la sera tra ombre e orme, ma il primo album delle orme si chiama Collage. Le orme, non vi ho detto che era un trio, e è rimasto sempre un trio, tranne che in brevi periodi Diciamo tipo gli Emerson, Lake and Palmer. Diciamo di sì, dai. Dai, se lo meritano Ve le lo meritate, orme. orme, via. Vabbè. Comunque, il primo disco è Collage del 1971, se non sbaglio. Sentiamo un attimo Sì, Paolo Mieli. confermo, Collage 1971. Confermo più che altro non per ricerca ma per ricordi, anche perché nel 71, quando occupammo la Sapienza, Le Orme era il gruppo per eccellenza seguito dall'antagonismo romano e non. Perfetto, abbiamo avuto anche la conferma storica. E da questo primo album, Collage, vi faremo sentire tre brani. Il primo, che è omonimo, Collage, il secondo, Uno sguardo verso il cielo, e il terzo brano, Cemento armato. Che diciamo? Vogliamo La fare. La svitiamo? svittiamola, la svittiamola, Svitiamola, dai, e lo so che ti piace, svitiamola, svittiamola, svittiamola, fatela già questa. partire, già sul mercato, già la svitta autoprodotta, vai. Allora, andiamo con le orme, vero? Andiamo. Collage. Thank you. vicino casa non si respira, è sempre buio, ci si dispera. Ci sono più sirene nell'aria che canti di usignoli. È meglio fuggire e non tornare più. Come ieri. aspettare il mattino per ricominciare. Ok, benissimo. State ancora ascoltando quella che è stata. Apriti il microfono, lo sei aperto? Aperto, sì, sì, ci sono. E avete appena ascoltato la fantastica suite autoprodotta, tratta dal primo album delle Orme, Collage? Ma a me verrebbe di dire Collage. Collage. Che potete trovare già nelle peggio bettole disastrate delle periferie delle città, nei migliori negozi di dischi e sui banchini di Napoli e provincia già piratati. Allora, il prossimo album sempre delle Orme che vi andiamo a presentare, che è il secondo, è Uomo di Pezza, che è uscito nel 1972 con una memorabile copertina apribile in stile fantasy, bianca, con questi disegnini, molto bella, molto originale, ma d'altronde un po' la particolarità degli album, degli LP, dei gruppi prog, che avevano delle copertine davvero molto molto belle, molto meritava quasi tenerle solo quasi come opera artistica, no? Proprio 13. Te che sei un collezionista. Sì, io li ho appesi tutti alle pareti di casa mia, è tutta tappezzata di dischi prog, originali ovviamente. Quindi se non sapete. Dove andare a rubare o quale casa a saltare, sapete che Prog 13 ha un patrimonio di dischi in casa appesi al muro. Se vuoi dare anche l'indirizzo, così facciamo l'opera completa. Allora, dicevamo il prossimo album che presentiamo è Uomo di Pezza, da cui Prog 13, perché diciamolo, la playlist di questa puntata è di Prog 13, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Lui si è fatto una settimana intensa di ascolto, di selezione, e gli va dato merito, no? Ma sì, dai, diciamolo. È stata comunque una ricerca un po' sofferta, perché ho dovuto scartare tanti brani, ho dovuto scegliere altri. Non era credibile questa cosa. Non era affatto credibile. No, va bene. Comunque dai, andiamo con... Presentiamo la Porta Chiusa e Alienazione dell'album Uomo di Pezza. Dimmelo ora, mixate o no? Vai, svittala. Facciamo queste le nostre classiche suite autoprodotte. Non era di tre pezzi la suite. No, la suite ora fai come vuoi. Facciamo come Black Friday, noi si fa il Black Martedì. Sì, va bene, facciamo un semplice mixaggio tra un pezzo e l'altro. Senza sminuire. Una suite che costa meno. Sì, ve la diamo così. Tariffa più bassa per più spilorci, per quelli che non hanno tanto da spendere, facciamo una suite tra due pezzi. E manderemo La Porta Chiusa e Alienazione, Le Orme. Thank you. scusate, siamo sul finire delle note di alienazione e avete ascoltato dall'album Uomo di Pezza e una mini suite o una suitina, chiamatela come volete, in successione La Porta Chiusa e Alienazione. E il prossimo album che andiamo a presentare, cederei la parola a Prog 12 e un quarto. E allora, il prossimo album è del 1973 ed è un concept album. Sarà contento Prog 1 di questa parola, che mi piace tanto. Sì, mi piace. Concept album e suite proprio sono. Pensavo di tatuarmele, guarda, anzi, se è aperta, come si chiamano quelli che fanno. È aperta la caccia. Quelli che oltre aperta la caccia, e potete abbattermi quando volete. Però a parte quello, come si chiama il ex batterista dei Goblin? Quelli che fanno gli album con i soldi degli altri, che va di moda ora. Crowdfunding. Bravo, io faccio da oggi parte il tattoo funding. Altro neologismo. Tattoo sì. Funding. Quindi vogliamo tatuare. I soldi per tatuarmi su. Scegliete anche voi la parte del mio corpo che volete per tatuarmi concept album e suite. Stile chicano, quello come volete voi. Quindi parte il tattoo funding. Silenzio. Sì, perfetto. Silenzio angosciante. Quindi questo concept album, un progetto molto, molto ambizioso e molto faticoso, si chiama Felona e Sorona e è basato sulla storia di due pianeti omonimi. E questo è un grande album che ha avuto un discreto successo sia da parte della critica che del pubblico. E contiene questo album un'unica lunga suite, quindi te le dico tutte, Prog 1, stasera te le dico tutte. Fammi emozionare. E, comunque con questo album contiene sonorità sempre più diciamo psichedeliche e di ricerca, delle sonorità più, diciamo, più trasgressive e più sperimentali. E questo album è stato tradotto anche in inglese, quindi cantato con i testi tradotti anche in inglese e andò in tournée anche in Inghilterra, ma in Inghilterra ebbe, diciamo, uno scarso successo. Però tornati in Italia, le Orme fecero una tournée molto lunga di questo album e registrarono uno dei primi, se non il primo, LP live della storia del rock italiano. Del 1974, si chiama In Concerto. Dai. E sì, di questo album, Felona e Sorona, vi andremo a presentare Sospesi nell'incredibile, che è il primo brano è tutto, chissà che cosa volevo dire. Dai, no. Facciamo anche una raccolta fondi per mandare in esilio a Prog 12 e mezzo. E l'altro è Il ritorno al nulla. Quindi Sospesi nell'incredibile e Il ritorno al nulla. L'album è Felona e Sorona del 1973 e queste sono Le Orme su Radio Wombat. Thank you. cielo si nasconde dietro molini di mille stelle, dietro la polvere d'oro di un altro universo. Due pianeti in armonia ruotano insieme nel loro regno, dove ogni cosa non cambia all'infuori del tempo. Come ampolle di clessidra, la sabbia scorre col suo potere, così il destino coinvolge la vita lassù. Dietro boschi di corallo, dietro sospiri di amanti veri, due rose gemelle non muoiono insieme. E quando nasce l'alba sopra il mondo, si sparge intorno un alito di vita, le foglie color miele ne assorbono il calore, un vecchio guarda in alto e fa un sospiro, dalle fontane scorga l'acqua e il vino, le lacrime svaniscono al suono di campane. abbiamo ascoltato dall'album Felona e Sorona, ricordiamo ancora un fantastico concept album delle Orme, e ne abbiamo ascoltato due pezzi, Sospesi nel Incredibile e Il Ritorno. Il prossimo è, penso, mi sa da scaletta, è l'ultimo album che presentiamo, vero? L'ultimo album che presentiamo delle Orme. E basta. Basta, l'ultimo album. No, è l'ultimo album, è Smog Magica, si chiama, che praticamente è un album che è stato registrato a Los Angeles, che ha un suono diverso, senza la predominanza delle tastiere, è stato messo più in evidenza la chitarra in questo album, con brani diciamo quasi spaziali come La Sirium Floyd e Laurel, oppure Laurel Canyon. Diciamo La Sirium Floyd, che dice già il nome stesso lo dice, per i più arguti, per i più intelligenti, La Sirium Floyd si rifà a delle dichiarate influenze prog 13. A chi? Ai Pink Floyd, anche se mi sembra un po' azzardato, però comunque un omaggio. Quantomeno un omaggio. Un omaggio ai Pink Floyd. E di questo album andiamo a presentare anche in questo caso due pezzi, che è Los Angeles, e chiaramente per evidenziare, secondo Prog 12, ma io non lo appoggio, per evidenziare questo scarso riferimento ai Pink Floyd con La Sirium Floyd. E con questi ultimi due pezzi chiudiamo quella che è stata la sesta trasmissione del Rovescio della Medaglia, e vi salutiamo dopo Prog 13. Massi, sì, mandiamo i pezzi e poi sul finire, anche perché mi sa che dobbiamo presentare anche un altro appuntamento, vero? Sì, c'è una novità sul palinsesto di Radio Wombat che dopo vi presentiamo, e intanto mandiamo il primo brano e poi vi presenteremo questa novità di Radio Wombat e i programmi della settimana. E ascolteremo, come vi ripeto, Los Angeles e Le Sirium Floyd, Le Orme, su Radio Wombat. delle nuvole era ancora intorno a me. Poi all'improvviso sotto di me un oceano luci. Thank you. l'Asirium Floyd, siamo alle conclusioni di questa puntata. Vi ricordiamo che domani dalle 9 siamo sempre in diretta su Radio Wombat con Slick Chick e a seguire 8 Hertz. Ed ora vi presentiamo la nuova trasmissione che andrà in diretta dopo di noi dalle 9 con La Revancia. La Revancia. Un programma sul però, punk. Però aspetta, Prog 13, facciamolo presentare, facciamo la chiamata in diretta a colui che presenterà la puntata che viene subito dopo di noi, subito dopo il rovescio della medaglia, e lo chiamiamo in diretta solo per voi. DJ Lomax, proviamo a sentire. Pronto? Pronti? Ciao DJ Lomax, sei in diretta, sappilo che sei in diretta su Radio Wombat al rovescio della medaglia. Ciao a tutti, ciao ai compagni del rovescio della medaglia, sempre sul pezzo degli anni 70, ma sempre sul pezzo. Volevamo siccome noi non abbiamo tanta fantasia sul presentare qualsiasi cosa, forse si è sbagliato proprio mestiere, non lo so, dovevamo fare altro Prog 13, vero? Sì, possiamo, siamo ancora in tempo. Siamo ancora in tempo per fare altro. Quindi volevamo da te qualche piccola anticipazione di quello che sarà il tuo programma, che se non sbaglio va in onda alle 9, vero? In diretta. In diretta alle 9, puntata numero 0, questa trasmissione si chiama La Revancia, in cui farò sentire e parlerò di punk e dintorni. Punk non inteso come musica, ma come attitudine. Infatti ci saranno gruppi che spazieranno dal doom al black metal. L'importante è l'attitudine che si mette in quello che si fa, dove lo si fa e perché lo si fa. E niente, stasera partirò con la puntata numero 0, c'ho già la scaletta pronta più o meno, in cui vi farò sentire tutti i gruppi fiorentini che vanno dal 2005 al 2010. Perfetto. E la puntata 0, e poi la settimana nuova tutti i lunedì andrà in onda con 9, la tua Revancia. Sì, sempre alle 9, certo. Perfetto. Perdonaci Lomax, ma stanno finendo i gettoni, sicché se cade la linea noi ti salutiamo prima. Cioè, DJ Prog 12 ha preso pochi gettoni. No. E ti ringraziamo e ti facciamo un augurio per la tua trasmissione. Grande, in bocca al lupo. Grazie. Voi continuate a seguire Radio Womba, tutte le trasmissioni, anche il rovescio della medaglia. Grande. Gli ascoltatori, ovviamente. Grazie. Poi vieniti a prendere i soldi che abbiamo pattuito. Sì, per la pubblicità su Facebook. Dai, ti salutiamo Lomax. In bocca al lupo. Ciao. Benissimo, è stato anche. Ormai sperimentiamo tutto. Abbiamo fatto anche la telefonata in diretta. Da qui però spero che non sia l'input per prossime delirate di scherzi telefonici, insomma speriamo finisca qui questo esperimento. Non credo si sentisse molto bene la voce di DJ Lomax, ma comunque, però ci abbiamo messo l'impegno, sarà, la voglia. E... Sarà alle 9 la puntata numero 0, poi la programmazione normale continuerà il lunedì alle 22. Okay. Sempre su Radio Wombat. Allora, mentre diamo giusto qualche anticipazione della prossima puntata, la settima puntata, che siamo arrivati alla lettera M. Quindi abbiamo chiuso con la lettera L, con le orme, come avete ampiamente ascoltato, e dalla prossima puntata partiremo dalla lettera M e fino ad arrivare, non ve lo diciamo, però sappiatelo che siamo alla lettera M di questa lunga... Grazie. Allora vi lasciamo su questo caloroso applauso e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao e buona serata.